amicizia di turno, capito? Poi c'è, un scoppiato, una condotta, perfetto, la quanto è la condotta, tanto, va bene, allora chiamo l'ufficio autoritario. Tutto organizzato, vabbè, come deve essere. Come deve essere. Beh certo, ogni settore c'ha il suo assistente tecnico, quindi interviene per far sì che si possa mettere a posto la situazione. Se poi una cosa che non si può mettere a posto nel giorno di festa o nella domenica, si mette a posto lunedì. L'importante è che ci sia il controllo e la sicurezza, diciamo. Quindi i conduttori mettono in sicurezza e poi lunedì mattina si manda la squadra per fare la riparazione. Tutto lì va bene. Che bel dente, ha visto un pomeriggio 5, voi siamo la Giochie, Veghisa, Angela, Favolosa, Cubista, come è mai possibile che una 70 anni sabbia dei gombini, si combini in quella maniera lì, chiama lì, qui sarai tutto. No, aspettate, Giochie. Penso 70 anni, va, allucinante. Angela Favolosa Cubista, stiamo facendo vedere pomeriggio 5. Chissà chi bada, chissà per me anziana chi bada. Che brutta. Cazzo, ma è ferro, ma è un roipo. Sant'Antonio siciliano, non sa manco va a vedere. C'è Sant'Antonio. Tutta senza venti, con questi mini shorts, con questi battaloncini che si chiamano da battona, 70 anni, va un culo bare l'aeroporto di Frattiglia. No. 70 anni forse anche di più, mi ha detto. Ma tu la devi dire, va bene, ha fatto pure un disco, Sant'Antonio, Nostra Signora. Puro, è stato in televisione, ti immagini. Allora è sempre da Maria De Filippi, è sempre un chissà fra imbecille di Barbara D'Urso, che la vio lì dalla Gadrea e tutta da la scuola di Gattania. Che persona antipatica che si crede bella, Sant'Antonio mio. Sì, io tu penso a Cipri, ai Ciboni, a Ugrido, e più in camerino, cioè sono pratici. A me è proprio antipatica il modo di fare, come si presenta, come si fa queste trasmissioni, sono tutti giaramente, tutte cose bugiardi, tutte balle che raccontano i giornali, che dice lì, bah. Si guardano sulle balle loro, cazzo, come giornalisti sono. È una giornalista, cos'è? Presentatrice. Di presentatrici, è una giornalista messa lì a canale 5 a fare la battona. La battona su. Ma io sono capo di Bugnetta e Luca, ancora un te che ci attende. No, non sono su Facebook io. No, non ci sono su Facebook. Yeah. E che stai dicendo? Quel tipo che stava ascoltando i 20 metri, stava mudando la Sicilia, stava dicendo che stava usando le 7000, anche esso. Le 7000 marche 5, non le 7000 il millone. No, ha detto solo le 7000. Io beh, le 7000 no, il millone c'erano i buchi. Sì. Non riesci a dare mai no, questa radio, chissà quanti verani già, sei quanti verani venduti a Buzza. Difficile che ce la venda, non credere che ce l'abbia molta gente, perché quando è uscita costava 7000 euro. Sì, e in vendita magari ce ne sono poche, però c'era per esempio, aspetta sto guardando, ce n'è di gente che ce l'ha. Non lo so, in Sardegna ce ne sono pochi, molto pochi, forse niente. A Sassari ce l'ho solo io. Allora, 7000, Mellone, con display blu. No, il display è arancione, non è blu. Quello blu è il Marchi 5, ti ho detto. Io ho scritto, il vecchio blu. glorioso Millone, forse è il primo modello, perché è uscito nel famosissima radio costruita tra l'89 e il 2003. Tutta arancione, display arancione, doppio display, cioè io, come l'ona centrale grande e poi l'altro piccolo subwoofer, ed è tutta arancione, è arancione, e questo è del 2003. Adesso vediamo la differenza di misure di peso. È uguale. Potenza 200 watt. Era una potenza di antenna di 200 watt, finale a MOSFET. E qua, display 715. Adesso aggiungo, prendo l'altro, non so se ho messo il 7004, prendo il Pro 3. Anche qua è bello, adesso il 756 è bellissimo. Sì, ma anche 7004 è leggermente più piccolo, mi serve. Sì, no, bellissimo 7004, grande radio, tre banda, 50 mega VHF a 100 watt, HF a 150, un bellissimo radio, c'è un DSP allucinante, qualità prezzo, bellissima radio, poi c'è un display fenomenale. Questa è una M da 550 watt, mentre nel SSB CW FM PCK 31 eccetera eccetera da 5 a 200 watt. Via. Sì, il finale è uguale a quello del 1000. Prestazioni, non so, comunque il 1000 è una grandissima radio, mi piace tantissimo. 25 kg pesa questo qua. Questo pesa di più. Se non riesco a trovare le caratteristiche di quella, porca miseria, che ci arrivi avanti. Pesa un bel. Pure il cazzo non è appena uscito nel manco, porca miseria, non riesco a trovarlo. E non gli voglio aprire il manuale adesso. Cazzo è 4. Oh, sì, 400 pagine. Sì. È un bel grosso. Non sono riuscito a farlo andare anche in M, ho visto, ho fatto il 7, funziona bene anche in M, bella recezione, c'è 40 watt in M, modula sino a 100 watt, proprio il piccolo da sino a 100 watt. Sono fatte per altre cose, però già vanno bene anche in M. No, era giusto per fare una prova, c'è un po' che da creare oggi in M. C'ho 430, 140, i miei baracchini sono questi, funzionano come dico io, lì non mi piace usare quella lì a me. Break. Avanti. Buonasera a todos, ciao Claudio, ciao anche a Luca, non so se ci sia altra gente, comunque riprendetevi tutti salutati, doppio rum, avanti. Ehi, già, ma in macchina sì. Ehi, Acla, cazzo, ho visto il bagno, ne abborra, è meglio che non hai guardato. È porra di cosa? Ah, ce ne pochi di apparecchi, troia. C'è anche, ci sono colonnine di linea, c'è l'alimentatore, c'è cazzo più di roba. Allucinate, tre o quattro casi, c'è un eccolo più nuovo dell'altro. Però vedo c'è la T250, la colonnina, l'alimentatore di quello che hai tu. C'è un po' di roba sì, quindi basta fare la linea, tu vuoi un po' di cose e ti fai tutta la linea completa del 140. Era, calmiamoci. Calmiamoci, che non sono tempi, se no l'ho fatto subito, mi sta facendo una porra, ho tutto. C'erano anche quei galassi, c'era quello con le manopole dorate, quello che volevo io, che cercavo io, quello con le manopole dorate che avevo venduto a Walter, quel galassi, l'avevo venduto a Walter, quello con le manopole dorate è favoloso, nuovo, ed è ancora da giocare, sai che partecipo e alla fine do il colpo. E quanto era di partenza? 200 euro? 170 mi pare. Sì, vabbè, dice te la giudichi a 200, hai fatto un affare, così è lui. Che baracchino è? Galassi Saturn Echo. Aspetta che 100. A 200 è un prezzo giusto, se va bene. E 200 è il prezzo suo già. Mi stavo andando a accompagnare mio nipote vicino a casa tua e poi cazzo, c'è una bella giornata, c'è un peccato stare in casa. Ehi già, tu mattina, sono uscito stamattina, solita commissione, poi mi ha telefonato Marco, sono andato a prendere un caffè con lui, due chiacchiere, eravamo seduti a bere il caffè, a mezzogiorno, insomma, perché prima sono rientrato, poi sono uscito, e niente, stamattina sono salito sul tetto, ho fatto quel lavoro vecchio letto, tirato sull'antenna, gli ho agganciato l'altro carro nuovo, che è quel 213, era tutto vecchio, gli ho messo il carro nuovo, e adesso ho aumentato anche la ricezione, ma molto meglio, dai, era troppo bassa. Cioè va bene, eh. Cava, andava, e vabbè, là. E se ti prepari, se andiamo a prendere sul caffè? Sì, già. Non ha giocato, gioco in salato, in tutta, già bello pronto al combattimento. Ti ringrazio come sempre, ma io quando gioco già così, poi e chi mi muove da qua? Ma io mi stavo guardando la TV, lì c'è Angela favolosa cubista, hanno fatto due risate, il gatto novembre ha 70 anni, ancora va bene, fatti a ridare. Stavo controllando anche io al computer, facendo due cosette. Però mi ha messo a posto tutto su, mi ha messo a posto mansarda, tutto il tetto, ho fascettato tutto, ho messo qualche tirante nuovo, insomma, ho fatto qualcosa stamattina, era un paio d'ore. Sì, va bene, con una bella giornata si possono fare queste cose, bisogna approfittare che le antenne così a farlo, che c'è il bel tempo, e così almeno. Salire a controllare tutto, ma mi sembra abbastanza inutile, ne sono salito anche da poco quando ha fatto quel vento. Io ogni volta che fa vento ci faccio una cappatella. Poi già, la tua manca, Gesù Cristo l'amore. Io non c'ho manco tirante, capito? Ho messo qualche tirante alle direttive sotto la gabbia del rotore, perché ho visto che ballava un po', allora gli ho messo qualche tirante di nylon. Di fascette nuove, insomma, ho fatto la piattina, mi ho ingrassato il rotore, ho ingrassato il cuscinetto di spinta, ho messo la vasellina sul PL della Mantova, ho rivulcanizzato la Mantova, giusto così per fare qualcosa, va, per essere un po' più efficiente la cosa che era tutta abbandonata, era proprio a un metro dal muro, capito, tirata su un paio di metri, niente di particolare, non è che c'è un tubo d'acqua, non c'è manco tiranti, ho mollato il telescopico, l'ho tirata su un paio di metri, giusto per farla lavorare meglio. È fatto adesso sarà ancora più nato, è arrivata la stessa parte, già non c'era bisogno di tirarla su, ma magari è una tua idea. No, troppo attaccati radiali a terra erano, mi già, l'ho detto, l'ho tirata su per quello, per avere più un piano di massa, l'ho tirata su un paio di metri, niente di particolare, non so di sia, sì, 2 metri, ci arrivo lo stesso, quasi ci arrivo, adesso non ci arrivo più a smontare il piede, però volevo mettere il cavo nuovo, siccome c'avevo il cavo nuovo io, la Camille, c'era un 213 agganciato vecchio, e c'avevo la Camille, quindi gli ho messo il piede nuovi e ho agganciato quello lì, ho fatto il choc come faccio sempre per l'acqua, ho messo il grasso di vasellina nel PL esterno per rimanere più protetto, diciamo, due gazzate, giusto così per farla funzionare meglio, niente di particolare. Ecco, avanti. Buonasera. Ciao, ciao Graziano, buonasera anche a te. Ciao Luca, ben sentito, ti sento giù di morale, come mai? Sono bussato. La Gorizia, poi giri in un viotto. cava cava. Oh già, ma tu sai c'era quello da 175? Cosa? Quello da 175 che stai dicendo. Ce ne sono tante, Luca, adesso non mi ricordo, comunque ce n'è una che è un bel conveniente, quella che ha le manopole dorate. Ehi, quella è, c'è un'offerta solo, c'è. Ma io glielo so come fare le offerte, aspetto all'ultimo minuto sempre a farle, non le faccio mai prima. Aspetta l'ultimo minuto, può essere a mezzanotte l'una, mi chiede da Claudio. A mezzanotte gli ho beccato un Ruiz che è alla fine del mondo. Ehi, con l'arte non lo buttino a Gianni, Luca. No, su quelle cose lì faccio più praticità io. Non lo so, no. Io ho un'altra tecnica, funziona sempre. 175, uno già 200 euro, compralo subito, una spedizione gratuita, la te lo guardi qua. Come 200 euro comprerò subito. Spedizione gratuita. Sì, già, non come manco partecipato. 200 euro comprerò subito. Spedizione gratuita. Bravino. Poi tutto male che vada, se non ti interessa, che tu faccio gli altri lui. No, già, poi sto conservando i soldi io e deve arrivare la direttiva e costa 1700 euro già. No, non ne spendo soldi così, no. Sto conservando i soldi e a giugno devo prendere la direttiva, la OKB, così siamo arrivati, abbiamo fatto l'amplay. No, vabbè, tu mi hai detto che te lo volevi mettere uno di Galaxy, per quello te l'ho detto, se no non mi sarei permesso. Ho detto, tutto male che va, poi se te ne è stupido, non mi dimentico. Però io già. Mi, Gian Maria lo compra. Mi sarebbe piaciuto, te l'ho detto, averlo per trasmettere il 27, così. Però ho speso un pacco di soldi, un bel di là. Adesso devo prendere questa direttiva per completare tutto il lavoro e quindi è un casino, capito? Non è poco spendere, vero Gian Maria? Fai bene, fai bene. Mettalo a parte, quando vedi proprio quello che ti piace lo prendi e te lo porti a casa. Anche se avrei avuto la patente, avrei avuto gli apparecchi più belli che ci sono. Mi piacciono a virre, però non li puoi usare, questi che a cosa li compra a fare? Sì, vabbè, l'importante è averli, poi a usarli già c'è tempo. Danni. Oh, dimmi! E un altro, 90 euro, un'offerta, scade domani. Non so se l'hai visto questo. Ma lui, non mi fido. Basta che lo guardo. Cosa qua? Quello vale per 90 euro già. Per carità. Oh, quello tutto bello lucido, quello piace anche a me. Quello che c'ha le manopole durate. Oh, ne ho visto uno da Vittorio l'altro giorno. Ah, sta bello veramente, il cazzo tutto cromato e davanti, è uno spettacolo avere quell'apparecchio. Quello lì è il Colt Excalibur. Oh. Sì, faccio è quello, Gian Maria. Quello ho visto male. Gian Maria, tutto mi bevi, ma nei Galaxy c'è una cultura, ne ho avuto 5 o 6. Vabbè, ma io li ho visti parecchio, mi sa. E poi basta aprirmi e li vedi, ce ne sono, ogni tanto li mettono, dopo li ritirano, sanno una settimana dopo li rimettono, tutti i tipi ce ne sono già. Il Colt Excalibur è come il Galaxy, solo che non c'è il frequenzimetro, capito? Poi c'è quello della Lafayette, lo stesso, che è uguale. Ce ne sono tanti uguali al Galaxy, però alcuni non c'è il frequenzimetro, capito? Li ho visti già. Che non ho bello, quello c'ha 200 watt, c'ha già. ma è stato toccato perché Galaxy 220 non c'era il massimo è 100. Poi lasci pure, ma è nuovo, no, è toccato, quello è nuovo, da no, è nel Regno Unito, è, capito? No, quello è nuovo, nuovo, capita, se lo vedi che è un bombo veramente, è come il turbo, è la stessa cosa, ha un colore strano, cosa è così, un verde opaco rimane. Capito, se nuovo chi? Ma se no il più forte che c'è era 100 watt del tubo, sino a poco tempo fa. Adesso ce n'è un nuovo, lo so, però non sapevo che ci sia con 200 watt. Ce ne sono. Dollari ci vogliono dollari. Bisogna comprare i nuovi per essere tranquillo, vero Cla? Allora, no, sono belle radio comunque, sia il Galaxy Turbo, anche quello lì già, quello che si assomiglia al Galaxy normale, era secondo me la numero uno dei baracchini bassi, perché è completa, c'hai tutto, capito? Quelle sono belle, ma è un rebus a far arrivare la pulita. Veramente magari fino all'Europa il trasporto è diciamo è gratis, però dopo dall'Europa venire qua e devi pagare anche la dogana. Lo so, io per quella americana che ho l'ho dovuta svincolare perché ti fanno pagare la dogana, capito? Se no non te la consegnano. Fatti allora, anche quello è fatto, boh. Però se c'è un qualche rappresentante buono che le fa arrivare in Italia magari e poi da lui è facile a prenderla. Ma ci sono, basta trovare quei rappresentanti, capito? E io ne conoscevo uno, ma ho provato a telefonare, ma non mi risponde più, evidentemente ha cambiato. E ma già ce n'è comunque, ce n'è tante di queste radio così, boh. Non ho capito perché se le vendono, ma vabbè, io Galaxy ne ho avuto uno e basta, però a me piace questo tipo di radio così, capito, non... sono sicuro che se la prendo rimane di ferro, ma avete la cosa tra l'armadio. Baracchini qua, sono tutte radio HF, tutta roba materiale, non li ho tolti tutti, no, intanto la 27 la faccio con questa, quindi alla fine è solo il pin di Dinamo. Qui che c'è Graziano, grazie! Ehi, già so di noi, dalla me, figlio tutto, riciclo tutto! Riciclo voi, cosa vuoi da riciclo? Riciclo tutto io, basta qua, vengo io. E dovete passare oggi, ma avete fatto tornata a casa, invece vi si aiuta, pigliate il radio. Ah, non te ne dico più. Mi hanno invitato stasera ad andare a vedere questa campagna, la casetta. E sono andato perché stavo sempre rinviando, adesso l'ho andato. A proposito, Gian Maria, gli altri due se li ha venduti. Comunque, se ti interessa, avviso pure da Scandellari, quello vicino alla motorizzazione. Ce ne sono di tutti i prezzi, ce n'è anche uno di 5 metri, con il bagno, impianto di luce, nuovo, 3.500 euro. Sì, già posso di impresa andare a pigliare i blocchetti, bravo tu io. No, tutta è completa di bagno, impianto di luce, ed è nuova, vai tutto, ribaccone, vai tutto. Lasciamo perdere. Ah, ce l'abbiamo la casa, a Puglia, è grande pure, così che tranquillo. com'era quella, quella di suo cugino? Bella e longa nove metri all'interno, è proprio grandissima, c'ha anche tutta la rondaglia in giro nel tetto, no? E viso due balconi, sale e scende la porta, due anni vera, di una la zarrata Baro, se ne ha lasciato una. Chiaro che tre bicchieri sembra così, ma pesano stesso, eh. quella lì che ha dice che ha tutto e passa un goccio e te lo segna ma la sorte e bisogna stare attenti, non bisogna bere quando devi guidare, c'è poco da fare, almeno sta tranquillo, perché oggi c'è una legge severa anche su, su quell'articolo, non si finisce più, capito? Ok, riprese la grazia. Io un amico l'hanno fermato, l'hanno fatto al contestatore, l'ha bevuto, ma non più di tanto. Adesso ogni 6 mesi deve andare a fare le analisi. Ma gli altri tu, questa, tutto la rotta di scatole, ragazzi, fatti. E bisogna stare attenti a queste cose. Non bisogna nulla, non bisogna anche se bevi la lanciata, te lo segna Segna l'arco e basta, no, la lanciata non ti fa, non te la segna. Segna l'arco e basta. Io, Giovanni, se mi metto bene ne registro un bel, non pongo uno. Cioè, no, a caputo a me veniva un bel. Però non è quello il punto, il punto è che anche se bevi due bicchieri, non è che caputi a me, no. È che l'arco test ti dirà come se fossi sbronzo con due bicchieri, capito? Infatti è così, Sì, allora bisogna evitare certe volte andare a posti così perché sa, è un cos'è l'altro in compagnia e capitano queste cose. Avanti Luca! Quadrato sì, scusa, io ci ho riesco a mettere chiamate nella voce. A quadrato sì già. Sì, a quadrato, io ci vedo per la tavola a farti un giro. Ho fatto giù in paglietta, c'ho pure la cosinelli, un collo. Poi tutti i ciabattoni siete diventati, prima non volevate l'ora di uscire, adesso non esce più nessuno. Allontanati già che facciamo le prove, allontanati. Così è. Piazza Graziano, grazie, vai a quadrato. E io così poi andiamo da casa a ritirarsi le radio. Grazie, così magari ne dà una anche a me. Vai, prendi a Graziano, vai. Così va, io qua babbo bullone, mica c'è un break. Brecco, avanti, brecco. Era poco fa che lo mando avanti, ma non riprende, avanti break. Alfa 44 dal pianeta. Dal pianeta di Alghero, ciao, mi sembra che sei quello lì di cosa, di Montedoglia, così è. Ciao, buonasera, mi hai sentito, arrivi fortissimo qua, Si vede la differenza dalla orizzontale alla verticale. 5-9 più 10, Claudio Sparviero a Sassari in compagnia di Luca, Flipper, poi c'è Gianni Doppio Room, Graziano e Gio Maria. Avanti allora, Gianni, riprendi tu, vedi se lo senti. Ehi, io lo sento, ciao Alfa, ben sentito, cordialità, Doppio Room, avanti, non so se tu mi ascolti, io sono in barra mobile da Sassari, avanti. Allo? Hai sentito Gianni? Alfa 44 del pianeta di Alghero, farà di sì. No, 140 senti solo a me e poi senti il sottofondo. Beh, Gianni non è piccoletto, macchina è qua a 100 metri da me, in zona anche abbastanza alta. Sai per sentire Alghero già dove ti devi mettere, su dove c'è la discoteca. Io già lo sento, non so se lì ascolta a me, ma io lo sento, diciamo, non benissimo, ma lo sento. Ok, no, qua è 9 più 10, fortissimo. Allora, vediamo, Luca Flipper, vai per l'amico di Alghero, Alfa 44. Buonasera, Alfa 44, vediamo se sente a me. Buonasera, avanti. Niente da fare, Gio Maria vai per Alfa 44. Altre volte l'ho sentito, se non ho cambiato posizione mi dovrebbe sentire. Buonasera Alfa 44, avanti. Chiedi che antenna c'ha. Dovrebbe essere sulla sul furgone della protezione civile, mi sembra che sia. Vediamo. Alfa 44, dove sei? Con chi sei? 6x6. Sì, a casa di un'attrazione fissa, che antenna stai usando, mi chiedevano qua a Sassari. Un'energia mezz'onda, Gianni, energia mezz'onda, vai a casa, non è macchina, è Gianmarì. Sente qualcosa bisbigliare ma non capisce cosa dite. Maria dice che tempo fa ti sentiva, alle adesso invece, cioè ti sente ma tu non lo senti, non so. Flipper, delfino curioso, sempre controllando la computer, sì, no? Tic-tac avanti. Ciao Claudio, qui c'è Gian Maria, mi sembrerebbe capito adesso da Claudio, lui diceva Gianni, mettiamo di sicuro. Buonasera a tutti, io sono appena rientrato, dunque, una passeggiatina, e adesso sono qua. Ne prendi pure tu. C'è cosa dal Ghero, o Giulio, non so se Alfa 44, se riesci, provaci tu, che a noi non ci sente. Ah sì, l'ho collegato l'altra volta, c'è Alfa 44, Giulio Dollaro da questa parte, avanti, buonasera. Sentito Giulio Dollaro, non è dove era prima, in quella postazione, è a casa sua, con l'antenna, l'hai sentito Giulio, Alfa? Voi una radio che non usiamo pagando se possibile, guarda, io ho solo radio HF perché sono radioamatore, quindi ho solo radio HF, non ti posso aiutare, baracchini non ne ho. C'è qualcuno di voi che ha qualche baracchino pagando che non usate per Alfa 44 del pianeta di Alghero? Ce l'ho io, dimmi grazie. Alla buona radice di Rughitta, da Pianta Attiva. Ma finaggio grazie, finaggio in campagna, voglia, mi avvaisci da me. Avvaisci, anzi, non abbiamo lasciato, cazzo, ci sono gli altri. Avvaisci, non è da crescere, per cui fra 15 giorni faccio la Rughitta, cazzo di voi. Cosa si chiamava nel ponte lì? Non mi dico qui, c'è Gianmarie che è morto, Gianmarie. Ehi, no, Gianmarie che è morto. Beh, aspetta, da un mese. Sì, da un bel po'. Da un bel po'. Oh Giulio, manco a te sentemi, manco a te sentemi, qua è 9 più 10. A proposito, dai uno sguardo lì allo Smitter che ho tirato sull'antenna e gli ho messo il capo nuovo, la Camille, stamattina ho fatto il lavoro che dovevo fare, perché c'era un 213, quindi tutti sgangherati, giusto per fare due chiacchiere, però ho visto che i segnali li stavo perdendo, allora ho messo tutto a posto. Com'è lì da te? Il segnale è ottimo? Non è il massimo, non arriva a 9.15. Allora tu vai, che problema, l'antenna sicuramente, perché qua tu sei 9.25, di 9.20, se ti ricevo di 5 in più tu mi devi ricevere meglio, continui a darmi sempre questi segnali bassi, inizio a preoccuparmi lì. Dicevo così, cosa ti posso fare? Purtroppo è un gol e gai. Vabbè, per la mia lo sai com'è, no? Non c'è motivo di continuare a parlarne, tanto lo sappiamo che non va e basta. Quando sarà il momento, adesso inizia la bella stagione, la cambierò e poi si vedrà, ok? Beh, comunque tu qua hai aumentato di 5, perciò. sicuramente è un problema tuo. Va bene, d'accordo. Allora, Alfa 24, a te il microfono, quindi non senti neanche a Giulio, così è. Hey. Ma è sicuramente su Giulio, no, perché prima io a Giulio lo ricevevo molto molto forte, poi ho iniziato a calare piano piano, sicuramente le sta calando anche la ricezione, perché prima mi dava sempre degli ottimi segnali, e io qua i watt uso sempre gli stessi, 20 watt, modulati 30, 40, ma la portante bianca è a 20 watt, quindi è sempre quello. E Giulio, mettiti il coso, perché adesso, come inizia il tempo buono, bisogna fare anni tutti in chivi, mettere l'antenna nuova, cavo nuovo, e così ti fa altri 30 anni, così è. Come minimo, se no non c'è problema, i 30 anni bisogna vedere se li faccio io, però l'antenna te li farebbe, ma il problema più grosso è quello, è che allora, vabbè dai, interessante ascoltarci, poi 5 dB in più, 5 dB in meno, non ci facciamo caso, va bene lo stesso, per me va bene lo stesso, non vedo problemi. Vabbè, avanti Gianni. Ecco, l'ho ripreso a casa, non ho fatto il tempo a avvisarvi, dove ho preso la Germania, forse non mi ha sentito. Sono ritornato a casa, ora un po' l'amico di Alghero se mi sente da qua. Brecco. Registrato un attimino. Attenzione Alfa, come si chiama? Alfa 44. Sì, registrato il brecco. Alfa 44, vieni avanti se ci sei, da Gianni doppio rum. Va bene. Mi ascolti quindi adesso? Attenzione, a me la secca, faccio un pezzo, la camera mi risponde. No, non sta uscendo, credo. Vabbè, intanto facciamo entrare il break, così non attende avanti. Papa, grazie, buonasera a tutti, Antonio Grode da questa parte. Ok. Dimmi, ciao Antonio, dimmi. Se non ci portiamo sul quadro misura americana, ma puzza un casino. Andiamo, ce ne sono 10, direttamente, vediamo un primo al canale a fianco. Un canale 10, allora, andiamo tutti al canale 10, forza. Aspetta, stavo parlando con il ragazzo Alfa 44. Attento Alfa 44, passa al canale 10, Alfa 44. Hai sentito Alfa 44, passa al canale 10. 27.075. Vabbè, comunque qua arrivi 9P10, quindi non ho problemi a ascoltarti. Non so se mi ascolti bene a me, l'unico che non senti mi pare sia Gio Maria. Graziano, tu hai provato a vedere se ti senti. Se ti sente lui, dimmi, lo senti a Graziano? Negativo, mi arriva come un 3, bassissimo. Non capito. Gli altri come ti arrivano? Bene? Gli altri mi arrivano con una media tra 3 e 6, e qualcosa che è stata affidata. Non capito, va bene. Avanti, doppio room, allora, non c'è l'FM degne, quindi non ti risposta a te FM. Sì, sono qua, l'ho sentito già. E vabbè, si sparava che ci sentisse meglio, e quindi ce la passati lì, ma mi sa che non ce l'ha. Non ce l'ha l'FM, già lo dico, non lo so, va bene. Avanti Giulio, riprendi. Ok, a me mi ha detto Boccante che mi segnalava Santiago, sì, vabbè, io a lui lo sento più basso, ma ripeto, il mio Smith probabilmente, perché io avevo notato che qua in questo Galaxy, se il segnale non arriva almeno a 7, i segnali non sono precisi a quello del K, mentre invece dal 7 in su poi sono precisi, c'è pochissima differenza, ma proprio quasi niente, capito? E dunque non è affidabile in poche parole, se no diciamo che adesso io a lui lo ricevo, Santiago 2,5 precisamente, e dunque dovrei aggiungere almeno un paio di Santiago, più o meno allo stesso segnale mio all'incirca, dai. Confermi AP Bianco 44, Santiago sì, per me? Vabbè, ho capito. Non ha copiato il passaggio, buco strano. Comunque, vabbè, dai. Vabbè, io te ne sarei via a girarci attorno. Se non ci sentiamo, non ci sentiamo. Facciamo la ponte, non se ne parla più, dai. Avanti, Gian Maria. Aspetta, c'è un problema, un attimino, riprendi tu un flipper. Cos'è su Bianco Bruciato, no, Gian Maria? Cos'hai? Flipper, allora adesso è l'occasione giusta per colorare un'antenna in lontananza, ma non ti intendi cosa vuoi che tu possa fare? Eppure, come antenna è molto periferica, ma è lontananza, niente da fare, mi sembra. C'è qualcuno che fa le prove e ti schiaccia, Giulio, non lo so. Non lo so, chi era? Chi era avanti? No, l'antenna da fianco. Ah, ecco la fianco, vabbè. Allora, che vi stavo dicendo? Se non ho l'occasione giusta per provarla in lontananza o qui per la tua antenna. Tutto lì, con l'audio che devi fare è quello, Ma non mi sento io, Giulio, non mi sente. Cosa vuoi che ti dica? Si può fare di più, ma se non mi intende, non mi intende. Vuol dire, è zona negativa perché non sente neanche un Maria, non sente nessuno praticamente, sente solo a Claudio, sicché, vabbè, noi stiamo uscendo con questi watt, Claudio magari qualcosa in più lo sente. Non è questione di batte, c'è una posizione che nella zona di Arenoso è sotto Montedolia, tra Santa Maria la Palma e Fertile, è mezzo lì, in mezzo all'Ivory, quella zona la conosco molto bene, è a 30 metri dal livello del mare. Qua ti ripeto, lo prendo io perché sono in alto più di lui e quindi lo prendo da sopra verso sotto, ed è 9 più 10 qua, capito? Però è già un problema che riesce a arrivare da voi, che lo sentiate voi, capito? Non so. Com'è il mio segnale lì da te, o Benny, com'è il segnale mio lì da te? Ottimo, così così non può andare. Comunque mi sembra strano che loro mi sentano, io non riesco a toglierli. Vedi, quanto mi senti? Ma sono fermo, come mai? Ti arrivo così a sbalzo. Guarda, ora il passaggio è stato proprio e non ho pulito. Vediamo se si sta messo a me, là. Attento, fa 44. Allora a me mi ha detto che mi sentiva, sentiamo non sei. Guarda, poi l'ultimo passaggio non mi sentiva. Strano però, è strano veramente questa storia. Attento, Alfa 44, Gio Maria che ti chiama, avanti, te lo rimando avanti. Avanti Alfa 44 per Gio Maria. Alfa 44, ma ci senti? È mezz'ora che mi dici che non mi intendi. Ti ascolta 3, 5, evidentemente c'è qualche problema di ricezione, non lo so. Non vi sente. Uia, va bene. Avanti, grotte. Noi lo sentiamo benissimo, cazzo. E quello è. Questo è un problema del suo barattino, no, qua, perché in uscita sta andando bene, diciamo, quel barattino. È in entrata che non sta andando bene. Se io sono arrivato a fondo scala, io non ho inteso il suo massimo, vuol dire che riceve. È la zona, evidentemente la vostra zona non è compatibile con la sua, è un discorso di zona, ma ti ripeto, io conosco molto bene dove lui adesso. E lei è a 30 metri a livello del mare, proprio basso, capite? Nella piana di Santa Maria la Palma, proprio sotto. Mi avete parlato in due o in tre. Allora, ho sentito a Gianni che ha detto come mai a me mi sente e a voi no. Poi si qua stavi parlando tu, ma c'era qualcun altro e non si capiva più niente. E noi più o meno siamo nella stessa zona. Le antenne di Gio Maria con la mia si vedono. Più o meno siamo lì. Magari io trovo il varco. E sei più in alto, no, già, dai. Tu sei più in alto molto di me. Se no di me. Ma tu come italiano sei molto più forte di quello di Gio Maria. Lo superi di almeno un minimo 5 decibel, dunque 5 Santiago, se puoi immaginare, è chiaro che evidentemente è più libero. Vabbè, comunque ho risaputo che io dalla mia zona, anche con un'antenna performante, non ho molte possibilità di arrivare bene alla parte di Agheo, questo da sempre, da 40 anni fa. Dunque, comunque, non ha importanza, vuol dire parleremo dall'altra parte, mi giro dall'altra parte, uia, vabbè dai, avanti Claude, ci sei, sì o no? Ehi, dimmi. Ho capito, uno se parli tu qualcuno schiaccia la portante, e ti gassigaggia brutti, no? Chi è? Boh, io non so. Quello che si caga si la puzza. Non va. Preoccupatosi, io non mi preoccupo. Cosa vuoi che ti dica? Vuol dire che schiacciamo il cielo, no? Tante saluti e buon appetito, ti posso dire altro. Oh, mi hanno fatto la mattina per raccontare, lui della macchina andiamo a girarci, quindi... ok, d'accordo. Da controllare, vai. Controlla bene però, il livello fa lo giusto. Vabbè dai, facciamo girare, grazie a Lombre, grazie. Non mi pare che non ci sono più grandi. Chi è? Ero buona di mi sono sapugnato la bocca. No, mi stavo mangiando il wafer, crema e cacao. Caravito. Leggiti lo stuzzicchino. Che ti mangi un pezzo di pane che ci mangi altri dolci? No, il pane non mi piace. No, no. Carotti, mi posso una frittata con i bietoli selvatiche. Sono messe a scolare adesso. Ti scusi se io vi rento, grazie. Andate in bar. Arrasta il colesterolo. Uia, uia. Avanti, Giulio. No, per me sai che sei così, è una puta staiello, non ti devo lasciare, te la senti mangiare, no? Va bene, tutto in casa a bocca, un po' in bocca, come vuoi sapere se siamo usciti da voi, tanto mi grazia. Si muore e muore il bambino del piccio, invece si muore il deccio, allora va così, tranquillo. Sto scherzando, grazia, potete dirmi. Vai, Giammarì. Grazie Dromagnà, grazie Dromagnà che deve chiamarmi, caro Marco, grazie. Ah, piccia, sei forza, grazie, se ti prendi dolci, da voi non mangia più. E allora, è sicuro, me l'ho messa a sgocciolare nel colapasta, sotto la pentola, e vedete come ti cucchia già vecchi, forse un impasto. Oh yeah, con una giusta caruzzi. Rotonda se la fa. Già da me, hai sentito giù, rotonda ce la fa. Lasciano fare, lascia. Queste belle si bigliano da una bicicletta, ma forse un rotondo. Bobo, non è possibile. Io ho sempre detto, Graziano, se non ci fosse stato l'avremmo dovuto inventare. Va bene, dai. Vediamo un po', a chi devo chiamare? Quel ragazzo, chiamalo tu qua, cosa vuoi dire? Io, tanto se non mi intendi, lo chiamo io. Riprendi qua. Esiste anche la cosa, la frittata quadrata, quindi grazie se la fate rotonda. Avanti, alfa 44. Guarda, mi ha chiamato un momento giusto che mi devo salutare, che ho rispetto. E vi auguro buona serata e alla prossima ci sentiamo. Tanti auguri, alla prossima. Ecco. È stato bello. Ciao Denny, alla prossima, ci sentiamo, buon fine domenica, grazie per essere entrato a salutarci. Avanti Beck. Ciao Cassio, volevo fare una prova con questo Alfa 44. I cieli dai Golo? Positivo, mi arrivi una cartolina. Dammi un controllino, per favore, che mi interessa un controllo per la zona. Sì, avanti, mi arrivi con un 9. Ok, 9 è pieno? Positivo. Va bene, dai. Saluto a tutti, ciao. momento stavo facendo un lavoro sul baracchinetto e ho voluto fare una prova. Riprendi Claudio. Ok, va bene, ciao Fabrizio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Alfa di nuovo. Allora ti mando i saluti di chi non ascolti, Gio Maria, Graziano e Giulio, ti salutano anche loro. Vediamo se Antonio è rientrato, avanti. Lui entra, esce, non c'è problema. Avanti è per te, Gio Maria. Fabrizio, ciao Fabri, buonasera. Ciao Gio Maria, ben sentiti tutti. No, vabbè, non ti preoccupare, il robe è così, già lo sai, sparisce, rientra, cosa ci vuoi fare? Infatti, ormai già ci conosciamo, per cui già è perdonato, ok, riprendi, grazie. Ciao Fabrizio, ben rientrato. Cappa, ciao Alfa 44, se mi hai sentito. Domani mattina ti manda il pesce, ha detto Graziano, già ti ha sentito, anzi ti manda la ciambella per fare un'altra frittata. Avanti Giulio, per saluti a Fabrizio. Ok, una cattolina ci manda domani. Ciao Fabrizio, 9 più 25 per te. Salutoni, ci sentiamo molto molto di rado, comunque mi fa molto piacere quando ti sento. Avanti Fabri. Ciao Gio Maria, ben sentito anche a te, ben sentito anche a Graziano, a tutti. Sono qua dai che vi ascolto, però che stavo provando un baracchinetto e volevo vedere un attimino come andava. Giulio, non Gio Maria, ma Giulio, c'è anche Gio Maria che ti mando avanti subito. Sì, ma col baracchino esce molto bene, anche la radio è buonissima. Avanti Gio Maria. Fabrizio, ci sente abbastanza bene. Ottima radio, ben sentito. Ok, dai, rimango qui che lo chiudo. Ciao a tutti, grazie delle due chiacchiere, ma sono qua, niente, chiama e ci sentiamo fra un po' l'altro. Ok, vai Flipper. Ciao Fabio, ben sentito. Poi chi c'era? Sempre qua sogno io, non problema, sono qua, ok, Gianni è sceso a controllare l'olio della macchina della moglie, ok, allora per te di nuovo Giulio, vai. Ok, c'è la Graziano anche, vabbè, ok, sì, no, sta facendo molto bene. Fabrizio con quel baracchino, molto molto bello, molto forte, anche la radio ultima. Avanti, grazie. Ehi, Fabrizio, dove l'hai presa? Al pinocchio. No, ciao Graziano, anche a te ben sentito, dai, anche a te ben sentito, grazie. Ok, comunque, tanto per renderti conto, adesso è calato a 9 più 20, prima era 25 e sono 9 più 20, ultimo comunque, anche prima quando era più forte il segnale, la radio era ultima lo stesso. Ma c'era anche Gianni, no? Gianni è rientrato e ce l'ho allontanato. Gianni, ci sei ancora? Sceso a controllare l'olio, la macchina della moglie. Ah già, è vero, hai ragione. Vabbè dai, comunque, facciamo girare. Vai Luca. Dai, mi sento 10 minuti che inizio a sentire un po' di linguolino. Magna, così ingrassi. Ti sta facendo venire fame nel Graziano, evidentemente. Credo che sempre magnendi, adesso anche a te ti sta coinvolgendo nella fame. Lavora. Uia, vai a fare merenda anche tu. Avanti Cla. Via, vabbè. Lo farò in 10 metri in Fabri. Ho fatto la Mongolia, l'Indonesia. C'era un bel po' di preparazione. Giulia Tetango, Alfa Yankee. La Mongolia. C'era anche Marco. Va bene. Ok. Apertura 0, non va nulla. Più che 0 sotto 0. C'era un po' di apertura in 10 e c'è un contest e quindi l'ho attaccato subito perché c'è un casino e Gesù Cristo. sei calato a 9,15. 9 più 15. Anche tu sei 9 più 15. Qua, baracchino mio ha 6-7 fatte di uscita, no? Non è più un vecchio Garas. Qui tutto vecchio, Garas e anche antenna. Perciò vecchio per voler dire, se lo vedi è nuovo nuovo come apparecchio, ma vecchio di tanti anni, in poche parole. Almeno 25 anni, forse anche di più. L'antenna ancora più vecchia, ma per quello lo sappiamo, lo sanno tutti. Va bene, avanti qui Gian Maria. Ok, dai, ne ha tutto, sono già meno qua, è già cominciando a... mi ha fatto venire la fame, grazie. Per cui ne approfitto, dai. Ciao Claudio, Gianni che è in Quarrici, allora Luca, Graziano, a te Giulio e a Marco. Mi scusi il nominativo, comunque circolare a tutti, dai, non vorrei dimenticarne qualcuno. Con la buonasera, a domani se coincide, vai Luca. Sono andato a mangiare, Gio Marino. Ciao, buonasera, alle prossime, cordialità e saluti, dai, avanti, grazie. Ciao Graziano, non so chi sei rimasto perché mi sono allontanato un attimo. Fabrizio, Gianni sei rientrato, Claudio, mi devo allontanare, Luca, saluto a tutti, dai, devo scendere giù velocemente, alle prossime, ciao, riprendi qua. Ciao a tutti, allora dai, rimango qua in ascolto e ci sentiamo. Buona serata a tutti, alle prossime. Avanti. Attento Massimiliano, bulldozer, a Bisese. Max, se ci sei, Massimiliano. Parola, 1-2-3 prova. 10-20-30. Se viene a bussa entra. sono pochi. Tu te l'hai già detto, tu entri e lascia la cogliuccia, va bene, va bene. Ce l'ha attaccata a terra, no? Stava radiando l'antenna, no? È inutile che abbia attaccato la mantova. Quella maniera lì conveniva lasciare la direttiva, però era troppo attenuata, hai capito? Tra la posizione verticale e quella orizzontale c'è troppa attenuazione. Allora vi ho agganciato questa, così va meglio, mi sento meglio tutti, capito? Prima non è che stava andando male, così lavoro meglio, lavora meglio la terra, c'è un piano di riflessione migliore, comunque, anche prima non era male, ma per fare una chiacchierata andava bene, comunque così lavora meglio, non va bene così. Beh, ma così la faccio per Marina, no? No, qua non ci sono andato perché mi sono fatto un lavoretto alla macchina, alla multica, che quando frenavo non mi funzionava la freccia, cioè c'era un filo pieno di ossido, mi sono fatto quel lavoretto di capito. Ehi, non mi è stata l'aria, erano con Mario, ci siamo alzati a lavorare la macchina, stata lucida, fa via chi fu, abbiamo raggiunto la salita, la valla, c'è macchina, Alvin e Biglio e Giavi, allora oggi l'hanno lavata, tutta aspirata, pulita, niente, domani mattina non c'è le visite, mediche, alle 8, e quindi stanotte è un po' regime, se no mi trova di nuovo fuori fase dottor Sale e Beppe. A te va che sta girando le uova con questo simulatore, a te. Non so se mi sento. E già ti sento, cosa fai lì? Filmando i nuovi, oggi ho comprato il telefono di Torta, ho fatto prendere la Torta. Non è Torta? Non ho capito. Allora, peccato, sono troppo distante, se non sarebbe venuto nemmeno un pezzo. Lui, sì, sto scherzando, ma va bene. Sai gente domani va giù in visita. C'è un timbrodino. Lo sai cosa mi ho mangiato di fave a pranzo? Io minimo ho mangiato 2 chili, non ci vediamo. Sono buone, fresche, dolci. Ho mangiato 2 focaccine, 2 o 3 bicchieri di vino che ho bevuto, ma ti dico, proprio col sale così mi ha ingordito dura, che è buono, che bisogna riprendere. che il tempo, ciao Massimiliano, non è che il tempo ti ha concesso almeno l'ultimo giorno. No, l'ultimo giorno non parlo di palla, non rientro, né domani né dopodomani. Mi hanno chiamato, il dirigente, stavo dicendo a Massimiliano, a proseguire sino a martedì. Rientro mercoledì, così faccio una settimana intera, perché sono andato da martedì, capito? Quindi faccio da martedì a martedì, perché devo azzurare per forza le ferie residui, perché niente, no, poi no, non te le paga, capito? Noi ci hanno già liquidato tutto, quindi no, non vogliono sentire niente. Si parte con la nuova che c'era prima, solo che io ho fatto il passaggio qui, capito? Mi hai, ciao ragazzi, nel senso che ha fatto molto tempo in questi giorni, no? Ha fatto pioggia, cose, non ti aveva dato modo di fare nulla, ma signoria, ti ho sentito strano uscendo poco fa. Mi ho sentito strano uscendo poco fa, guarda dov'è. No, adesso va bene. No, c'è cioè, un'amica, c'è un frullatore, sta parlando. Ah, ecco cos'è. C'è un frullatore. Aspetta, apro il microfono, metto quello normale, perché sennò qua si sente tutto. No. Una radio di Vegas. Da te, Gianni, visto che stai usando il K, ha migliorato qualcosa? Da Massimiliano più 5 dB. Da te ha migliorato qualcosa rispetto a prima? Scusa, ma non ci vuoi. Perché io non so due PCT, la vergogna siamo, cazzo, mamma mia. Da 50 anni con i PCT siamo io. Io non vedo niente da vicino. Da lontano vedo le mosche, da vicino non vedo una mazza. Sei quasi 9.30. E anche tu. Allora, è uniforme la cosa, vabbè. L'unico è Giulio che continua a darmi questi segnali bassi, non capisco perché deve essere proprio un problema tra me e lui o la sua antenna, non lo so, comunque gli altri, anche da Massimiliano, più 5, anche tu sei 30, prima non ci arrivavi al 30, quindi hai qualcosa di sollevare l'antenna, già te lo vedo, era troppo bassa, c'è una radiale a 50 cm dal muretto della mantovana, adesso sono un paio di metri, lavora meglio l'antenna. Sembra così vicino mi vogliono bene, no? Se va bene, se va bene. Cappa. La radio è buona? Impasto ti sento io già. Trappato? No, impastato. E vuoi che la faccia leggermente il macchiglio, vedevo. La potenza deve abbassare, non macchiglio, la potenza, per me siete un po' vicini. Guarda a vedere Massimiliano, come va? Così è già migliorato. Vabbè, sta pompando un po' di colabilità. No, mica non toccare già, non influisce. Quando dico che sei impastato ai tuoi vicini, vuol dire che abbassare leggermente la potenza. Perché qua per esempio andava bene che sono lontano, però Massimiliano c'era un tiro di schioppo, non pensare che sei lontano la vedono. E il Mike viene da 10, Claudio, non l'ho toccato. No, ma che lascialo sempre a 10 già, ma quando ti dicono che sei impastato, abbassa leggermente la potenza che schiarisce, capito? Infatti adesso va molto meglio anche da me, ma io ti ascoltavo bene anche prima, solo che con Massimiliano siete molto vicini, sembra che siete lontani ma siete vicini, non mi sanno. Sì, ma poco fa avevo la ballata attaccata, capito? Mamello! La verità, adesso sono 10 watt giusti, proprio 10. E 9 e 20 con picchi a 25 quasi. Sì, va bene. Sta andando. Il mio segnale com'è? Già. Sono spiccito. Ah, se ti mettono gli occhiali, aspetta che... Ok. Microfono normale però, ho già. Io sono 10 watt scarsi, 9 per esattezza, va, com'è? 9 e 15 a figli di 9 e 20 quando parli. E tu sei uguale, così. Va bene, va bene. Guarda, a te 9 watt, Ma già sta uscendo, sì. Sì. Scusa, non mi avete chiamato. Ehi, ma ti stavo chiedendo come va a te, come era lì da te. Aspetta, occhiali anche per me, io me li tolgo qui, sono vicino, se no mi fanno, mi danno fastidio. Prova. Guarda, davvero, claro, non l'avevo fatto. Quando? 9, quasi 15, sì, con picchia 9:20. Con microfono normale, però, perché questo è il palmare. Aspetta, però, aumentiamo fuori. Ok, va. Così siamo a 20, 22, va. 9 più 20 con picchi quasi come Gianni, sì. Pappa, pappa, ti volevo chiedere, Clara, ma voi usate bulloni zingati da 27, bullone dado da 27, come, da chiave 19? Da 27, è un legato lei a Tracamo, Clamp, sì, perché? Se sono lunghi, Clara. Ma no, siete 27, non avete più preso, parlo della giurista, comunque, va. Non c'è, perché i millimetri quadri, la 27, ci vuole la chiave a battere per esigerli. Quanto sono lunghi? Non se non me lo ricordo, però ci sono varie misure, perché? No, così magari se me li buschi, io mi preparo tutto quanto, mi sa che domenica o sabato dopo pranzo mi sollevo l'antenna. Perché da 17 sono, cioè da basso, sono per chiave 17 o per chiave 19? Se li vuoi per chiave 17 ce li ho io un po', zingati, buoni, ne ho un bel po' che li ho presi proprio da lavoro, perché anch'io su nella gabbia ho messo quelli. Sì, ma io non lo voglio fare passante, hai capito qua? Io non lo faccio passante. Allora io voglio fare così, prendo il palo, col trapano lo buco, non però da parte a parte, lo faccio solo un buco, lessando proprio il dado dove faccio il buco, poi inserisco il palo dentro e poi col bullone ci avvito dove ho saldato, hai capito come lo voglio fare? Cazzo, mi si dice male delle scopi, ci sono da sei e tu lo vuoi pulire, va bene la 12, dai, perché aveva 17, va bene. No, va bene, va. Non so quanti metri devo vedere un po', il palo è 4 metri, 1,50 m a gran fa le gaffe, 1,50 m, io penso che 4 o 5 battino, 4 anche. Ma che cazzo stai dicendo 4 o 5, battono anche 2, 50 cm uno dall'altro, che cazzo non ci vediamo, ma lo già devi dire. Ma per tenere tutta l'antenna con l'altro palo che ci inserisco dentro. Ma non hai visto i telescopici come sono 20 cm, no, 10 cm uno dall'altro, i fori, fai che lì il telescopico è più pesante, perché tu c'hai quello innocenti, cazzo lo metti a 50 cm uno dall'altro, fai i bulboni 3, ma il cazzo 4. E vabbè, uno in più già non li fa male, no? Capito, Clara, così poi se sei libero magari sabato dopo pranzo, tanto ci vuole poco a farlo, mi hai capito? Devo togliere quello da 2 metri che c'è, inserisco quello da 4 metri, inserisco dentro, però prima me la devo accordare prima di poi portarla su, Bene, scusa Gianni. Sì, sì, l'accordiamo. Si pulisce come ho fatto la mia, si mette il grasso che va messo, si dà una sistematina e poi si piazza. Non c'è problema. Io ho una scatola di dadi con bulloni da 12, no? Non c'è problema. Da 12, da 8, da 6, da 14. Ce li ho tutti, capito? No, non c'è nessun problema. Lo facciamo. Io dal 1° marzo fino a quando me ne andremo in pensione entro alle 8 e esco alle 2, finito. No, né 2:05 né 2:05, entro alle 8 e esco alle 2, finito, compresa 2 volte al mese la reperibilità sia di sabato che di domenica, questo dipende dall'azienda, dall'ente. No, non c'è più gioco di Caruso, straordinari contro straordinari, pagati o non pagati. Nel momento in cui mi devo trattenere ci vuole l'autorizzazione da Cagliari via fax, allora ti autorizzano a trattenere, se no non ti danno manco una lira. Questo è quello che è stato deciso. Perciò faccio io dalle 8 alle 2 faccio vigilia, che sia di sabato, che sia di domenica, non c'è Cristo, non c'è niente da fare. Okay, quindi quando vuoi tutti i giorni, da lunedì al sabato, io dalle 2 sono a casa, dopo le 2 sono a casa, non problema, avanti già. Aspetta che mi stavo ascoltando, va. Cara, va, va, ciò va bene, sì, sto migliorando almeno, va. Non è come me che sto peggiorando. E già peggiorando, dai, anche tu già. Se ti tengono questo a queste vittime, sicuramente non faccio neanche la metà di te, sia come mentalmente sì, io sono venuta la lì andando, lo prevedo, adesso poi a maggio abbiamo questo corso di aggiornamento, e poi figurati un piccolo computer, c'è il privato, per fare tutti gli aggiornamenti al PLC, per fare tutti gli aggiornamenti ai telecontrolli, infatti questo Salvatore, se era possibile avere un programmino per gestirlo da casa in modo che non abbia grandi problemi, a Salvatore mi ha detto che non c'è nessun problema, perché anche lui c'è un sistema del genere. Quindi appena andrà in porto questa cosa mi affido a Salvatore e mi faccio fare questo programma a lui, e così sicuramente lavorerò ancora meglio. Però ciò che fai tu Gianni non è buccia di gioco, non per discriminare il tuo lavoro, perché è un lavoro come tutti gli altri, però sicuramente fai molto ma molto più di me, quindi ti senti molto di più. Adesso col fatto che diceva non sto lavorando, Clark, credimi che è alleviato moltissimo, tutti quei dolori che sentivo, quelle cose si sono alleviate di molto, tirando pedane, facendo, finisci la macchina. Infatti sai cosa vuol dire, dopo pranzo, pranzi con tranquillità, ti fai un riposino, poi verso le 4 e mezza, alle 5 te ne alzi, ti fai due chiacchiere alla radio, non hai il tuo stress, devo partire, ciao a tutti, devi gurri, quante volte ti sento di corsa, sono in ritardo qui e là, è tutto stress che poi si accumula, nonostante ci sia anche la giornata magari di più calma, meno calma eccetera, un vai e vieni, un vai e vieni, non si può stare così correndo a destra e a sinistra, non va bene. Anche da me era la stessa cosa, cioè io avevo e adesso ce l'ho ancora meglio, perché ho una tabella di marcia con un ordine di servizio per tutta la settimana e non si discute, non c'è niente da fare, mentre prima partivi con quell'ordine di servizio anche dalla sera, no? A volte qualche collega clama da mattina, facciamo quel lavoro, sì, prepariamo tutto, il primo che arriva in capannoni per preparare il materiale, poi arrivo io, ci mettiamo d'accordo, bim bum bam, tanto arrivavi lì, come state andando? Fai quel lavoro all'ingegnere, fai quel lavoro, non me l'hai detto lì, no, moriamo tutto, guardi, diamo priorità a quello, cazzo, quindi molli isso, gli fai un altro, alla fine non si compre, guarda un gruppo, qua non esiste più, quell'ordine di servizio è quell'ordine di servizio devi rispettare, quelle cose che ti dicono di fare durante la settimana devi portarle a termine durante la settimana, qualsiasi cambiamento va autorizzato da Cagliari e non si discute, non ne vogliono sentire più, era un troiaio. E adesso è meglio, dai, ti sento meglio. E anche a me capita quello lì, dopo non ti fanno convidare nulla, quando tu ti organizzi una cosa, il lavoro come deve essere fatto, ti bloccano, ti dicono no, fai prima quello, poi se c'è tempo fate l'altro, ti incasini tutto quanto, non ne combini una in grazia di Dio. Ecco. Ti abbiamo chiamato poco fa, dove sei sparito, avanti. E poco fa mi avete chiamato, mi lasciate in disparte in parcheggio, alla fine mi stanco, cosa vuoi ti dica là? Non so quella lì. No, stai scherzando? Sì. Bravo. Prende io, per cercare i gozi, disparte. Abbiamo chiamato 10 volte, evidentemente lì al telefono ti sei allontanato. Sono io, Gianni Massimiliano, riprendi. A Calamaiato mi sono, no, ho sentito troiaio, ciao Massimiliano, ciao Gianni, ciao Claudio, ho sentito troiaio e sono entrato, capito? Ma lo sai, questo è un troiaio, cos'è? No, stiamo parlando di troiaio del lavoro. E finalmente si è riuscito, perlomeno l'azienda dove sono io, a tirarne fuori qualcosa, perché adesso lei non vuole più sapere di spostamenti, di balle, di bolle. si è fatto quel lavoro, cazzo arrivi lì, ti fanno scaricare tutto perché non andava fatto quello lì, ma va fatto un'altra cosa che ha priorità, ma vaffanculo. Vabbè, comunque adesso è cambiato tutto anche da noi. Avanti Massimiliano per Antonio. Positivo, saluto Antonio, buonasera e ben ascoltato. Ciao Massimiliano. Programmi per queste estate? Per queste estate? Il cazzo, non so se pure un urso da questa estate. No, credimi, due mesi mancano, due mesi e mezzo. Non lo so Antonio, io il prossimo mese, dalla prima settimana di maggio sino a metà maggio, sono a Cagliari, tutti i giorni che dobbiamo fare questo corso aggiornamento, poi se rimango in zona, rimango in zona, se mi mando da qualche altra parte, vado da qualche altra parte, ferie le sto maturando dal primo marzo, perché sto chiudendo le ferie residue dell'altra società, non so, non si sa. Il 12 e 19, dal 3 alle 7. Cosa? Cosa è l'aggiornamento? Oh, mamma mia, se mi ha rotto le balle che ti dico. Poi fanno le cose, non le mettono in pratica, KCCP, tutte queste cose che fanno, e poi non li buoni in pratica, quindi lo fa il corso se poi non mette in pratica le cose. Faccio dire, abbiamo fatto da poco il responsabile della sicurezza, la sarebbe giunta a controllare, non devi controllare proprio nulla, perché lo chiamavo da Eugaro, comunque è venuto a fare un giro negli impianti per vedere se c'erano lavori da fare proprio per la sicurezza, cazzo delle botte da Demisi, Edo. Ah, non lo so. Quelli dello Spredolo una o due volte andando a controllare gli altri si sono fatti male all'interno del cantiere. Non ti giuro, ma l'ho guardato così, mi sono messo lì adesso, ma dove stai ridendo? Ma ti sei visto come ti sei aiuto? Cioè, non mi ho messo un'antifortunistica, io mica fai veramente il cazzo, cioè tu che devi dare l'esempio, diveni senza divisa, con un giubbottino in pelle, tutto fighetto, un botte da denti, ma vai, fatto un blog, aiuto. Ma loro ti dicono che loro sono venuti lì per controllare e non per lavorare, che è sbagliato, perché comunque l'accesso a un cantiere deve essere dato solamente a persone, comunque a un ambiente di lavoro, a persone che sono in regola con la sicurezza. Ma detto da uno di questi controllori, dice, una volta sono andato lo stesso con i moccassini a fare il controllo spreader, quindi nei cantieri di lavoro, e c'era una specie di cose, un po' di calcinacci in terra, e non si era reso conto che c'era una mascella con un chiodo inserito bene. Come ci ha messo il piede sopra, mi veniva da urlare, non ho potuto farlo per non farmi sgamare che mi ero fatto male, mi sono messo da una parte, dice, mi sono tolto la scarpa e ho iniziato a prendere a colpi di mascella per far uscire il sangue marcio, cazzo, ma dice, un dolore da paura. Io l'ho provato quello lì. Mamma mia, ma non sai quanto è doloroso il chiodo, cazzo, mamma mia. E poi subito ha perso fare l'antitetanica. Sì, ma come hai detto tu, loro che vengono anche a fare un controllo, perché giustamente si fanno, sono addetti, a me non me ne affutti nulla, però prima di entrare in cantiere, come hai detto tu, ti metti le scarpe antifortunistiche, perché se succede qualcosa, poi sono cazzi tuoi. Sì, ma poi adesso ne esistono di tale fogge che non sembrano neanche scarpe antinfortunistiche, a molte sembrano scarpe mocassini, comunque che hanno la ciabatta in ferro lo stesso. Quelle che avevo io ieri erano dell'Enel. Erano già? Quelle dell'Enel. Ah, no, ce le hanno date, ce l'hanno tra poco anche, ogni 6 mesi ce le avranno a noi. Ci hanno dato quelle stive, adesso sono della Diadora, sono anche belline, scamosciate, ma a me poco me ne affrutti, intanto io le uso sempre. Sempre proprio per la mia sicurezza, perché posso scivolare e cazzo poi non ti pagano, come è già successo a un mio collega che si è incastrata la scarpa da tennis nella griglia, cazzo, mi ha segato un dito di netto, proprio di netto, è infortunio, vero, non ha preso neanche una lira, perché lui non era in condizioni di lavorare in quel contesto lì, capito? L'hanno bruciato, lui si impara, l'hanno messo solo in malattia, senza infortunio. Avanti Massimiliano. Che numero è di scarpe, Clau? 41. Allora, quando te ne danno chiedi un 42, tanto tu stai per andare in pensione. 42. Ma è bisogno della favola, ma era dove ci vale, io non è bratto, però capita qualche volta, mi metto che c'è qualche impianto lagato, che lì non mi interessano. Ma un paio di scarpe, va. Anche se a lui c'è, non è che ce le faccia l'azienda, ma ce le dà la cassetta, ma c'è di chi si rigassone, non c'è viene nulla. Cioè, li si vale come quelli che ho io con la punta in ferro? Sì, quelli gialli classici da cantiere, va. Però ti proteggono anche la caviglia, io ho anche quello che proteggi caviglia. Ah, è bello, stanno facendo anche qui, va bene. Ok, va bene. Ti ho sentito chiamare tanto oggi, pensavo ti rispondesse qualcuno in quella in quel settore. Ui, K, infatti già mi ha risposto qualcuno. Per un attimo ti ho scambiato per Marco. Dove andare in macchina? K, ma è che apparato ti sei messo? Ah, stavo provando, lo provo ogni tanto. Il coso, il 706. Con un pacchino di tutta maetta. Che antenna ti sei messo? La solita base magnetica c'ho, una base magnetica col. Ce l'avevo sempre una furgonetta io. Poi me l'hanno fatta a Puglia perché dice che mi distraevo, capito, la rottura di balla. Allora non ne ho più messo. E stamattina così ma sono uscito e l'ho messo nell'alfa. Dovevo andare a prendere a Mario e la dovevo lavare. Capito? Infatti me l'ha portato a poco fa. E gli ho messo la base magnetica con la. C'era anche Marco, la B10M della Comet. Ascolta, così, anche se magari non lo sai, cos'è che viene a costare un lavaggio completo? Completo dentro e fuori? Ah, un pezzo più di 25 euro, dipende pure da come la macchina. E allora ci passo domani mattina. Non penso, altrimenti poi ci sentiamo, non è un problema quello. A me, siccome l'altro giorno l'ha presa e si è caricato la Michigione, no? Che erano in campagna, avevo vista dentro, non voleva vita, mai ho visto la macchina così, ma sorpresa con i radi, tutti i tappeti sporchi, ha detto ma vita macchina cosa ti intendi? Dopo pranzo è venuto, gli dico campagna, ok, sono mai venuto e chiave, e già voi, la macchina, ha portato a poco fa. Ci sono le gomme che non volevo vedere i cerchi, luci, nero gomme, tutta lucidata, ah, gli trattimi allora, perché poi lo sai che non mi prende più macchina. Tanto se c'è una mobetta portala domani mattina da me che te la raschio prima di andare. Quasi quasi. No, già è un paio di mesi che non l'ha tratto, quindi è, per carità, ma è il furgoncino, non è la macchina. Ehi. Cazzo, il furgoncino, l'ultima volta che mi sono seduto io era pulitissimo. Ma qual è il mio? Ehi, da questa estate. Sì, allora, infatti, da questa estate che non lo pulisco. Ma era già pulito. Vabbè, ma un furgoncino dove lo carico così, e stai mettendo roba, fai, e scendi, e sali, e tiri e molli, è chiaro che non può essere come la macchina, ma la macchina tua è sempre bella pulita e ordinata. Pure paragone mi sei bisogno. Ma e dove siamo andati quest'estate, ricordamelo? Campo Zingari. È vero. A prendere cosa? A prendere Carrasio. Ebbene, come mai sei qua? Sono sempre da tutte le parti, però sto facendo roba, non riprendere, era giusto per ricordarti dove sei andato. Dove sono andato? Se ti ho incontrato, scusa, hai detto bene. Ma con chi eri? Solo con tua moglie? Sì. Allora Fabio, ti correggo, non siamo andati lì dove hai detto tu, ma bensì eravamo alle Saline e dalle Saline ci siamo spostati al centro residenziale e commerciale, cazzo non me ne ammetto come si chiama quell'altro posto, a berci una birretta fresca. Diglielo, si faccia una cagata invece di stare al Villaggio Rosso lui. E tutta la mattina, anche il pomeriggio, abbiamo mangiato anche il risotto alla pescatora, vero Antonio? No. Da quel testa di uccello dell'amico nostro. No, comunque si tratta bene, quest'anno non ci può più andare. Perché? Perché ho preso in gestione un bar al Villaggio Bianco. Arruinati, Gem. E io da solo con quel testa di uccello. Ma io veraccio, va. Ciao Massimiliano, arrivederci. Ciao Massimiliano e ciao anche a Fabrizio. Qui tanto non ci scende più la salina. Non ho, come faccio a scenderci? Se devo stare lì, sei qua appeso. Se quest'anno avevo deciso di prendermi l'ombrellone, la sdraia, che almeno arrivo, è tutto pronto, non ci scendi tu. Papà, ti lascio la mia, così almeno puoi giocare a calcio barilla senza che ti crepino. Con quella roba là? Tutto. Uia, già ci voglio vedere che c'hanno, mamma mia come sto, no sono, mamma prova a prendere il posto lì, c'è mia sorella anche, ce l'ha, ma chissà quante volte ci potrò andare, non so come è messa la situazione. Sarà molto difficile, farò una domenica sì, una no, come facevo l'anno scorso, non so. Avanti, ciao Fabrico, che buonasera, scusa, però mi sono dimenticato. Avanti già. Mica le paghi queste cose stando con la testa scoperta, inutile che fai il giovane che sei anziano già, a futti dini, tappala la macchina. Non ti ho visto comunque. Sì, che ti ho suonato in via Mendola, stavi scendendo col limone. Ti ho detto, ma chi è questo? Boh, io lo saluto tanto. Tanto, io lo saluto tanto, tanto segaggio, mamma mia. Mamma mia! Mi prendi Gianni, dai. Sì, già. E me Fabrizio. No, ma c'è anche il bambino in macchina dietro, non l'ho visto. Perché per fare lo splendido, per fare il ragazzo ancora gli dici di abbassare la testa, così almeno ti si vede solamente a te, che lui è. Con la gialla? E con il limone era. E non voglio una completa con la gialla, ma la stai usando Fabio? Era fermato tutto l'inverno, l'ho tirata fuori domenica scorsa, stamane sono andata a comprare la batteria nuova perché era mezzo partita, l'ho pulita, per modo di dire pulita, gli ho passato lo straccio, l'ho solo tolto un po' di polvere, non sai com'è, e ho fatto un giro. Bene, bene, bene. Poi dice la moto e macchina da luna, costruttore. Ma io non ci vado a queste cose, mi chiamano ma non ci vado. Ascolta, una cosa ti volevo chiedere, l'amministratore lo conosci tu del tuo villaggio, sì? Sì. Che personaggio è? Confronto su quello che abbiamo abbastanza tranquillo. Ok. E noi ci ha risollevato, diciamo, Sì. Poi è un legale, capito? Quindi ogni cosa la vede sotto un'ottica e non ci, ogni volta non dobbiamo pagare fiori di quattrini, capito? Comunque più o meno, per me va bene, dai. No, perché mi serviva a sapere, siccome l'ho contattato per sapere chi prendeva in gestione invece quel bar lì, è stato un po' così, un po' ruvido. Sì, lo prende Cosimo il bar. Ma sei sicuro che lo prenda? Perché a me hanno detto di no, infatti io sono partito dicendo che non è che volevo sapere, volevo chiedergli che sapevo che non l'avrebbe più preso tale Cosimo. E lui dice no, veramente ancora non si sa, vi rivi in badama, comunque ci sentiamo fra 10 giorni, però era tutto quanto un po' rigido. Io tratto molto bene, potrei mettere una buona parola, però devo bere e mangiare gratis tutta l'estate. Ma non so se lo prendo lui, sei sicuro di quello che mi stai dicendo o no? Che cosa? Che lo prende lui. Per quanto sapevo io l'anno scorso era così. Poi non so se quest'anno ha ancora intenzione di fare quello che ha detto l'anno scorso. Perché cosa ha detto l'anno scorso? No, a me l'anno scorso, sì, l'anno scorso c'era lui, però quest'anno sembra che non lo prenda più. E se non lo prende, sicuramente lo darà qualcuno di sorso. Lo darà chi? Cosa, l'amministratore, non lui? Sì, l'amministratore. Oh. Sì. Ma è quello che c'è dentro il villaggio o quello che c'è fuori? Quello, ma chi? Il villaggio rosso è dentro il villaggio rosso. Quello che devo prendere io è dentro il villaggio bianco. No, non c'entra niente con quello, col bar. Ah, ho capito. Vicino alla spiaggia dove c'è il campo di calcio. Giù, sì, giù in fondo dove c'è il freschetto. Esatto, quello lì. È bello quello. Sarà un 16 metri quadri dentro, una cosa di più, 19 metri quadri, non è grandissimo, però già va bene. Quanti lavori già devono fare, tutte le spese estive, dobbiamo accogliere ambusciate a buccia, ambusciate a e spero che sia qualcosa di meglio. Quel villaggio ha un indotto di 750 persone, sono 220 famiglie. Beh, mi ricordo io, ho sempre lavorato col baretto. Vabbè, non è che ci sia da molti anni, però già sta andando. Beh, lui ci sia almeno 3-4 anni. 3-4 anni, sì, 4 anni forse. Perché c'era andato una volta io e c'è un all'appeso a casa in affitto un collega, eravamo scesi a prendere caffè, sono 3 anni fa. Ma inizialmente c'era questo qua che lo gestiva fino all'anno scorso, che si chiamava Dario, non mi ricordo cosa, che è uno di quelli che ci trascinava le ciabatte dalle 8 del mattino alle 8 di sera. La stagione c'è. La stagione è piena, prendo la mano. Ma poi quest'anno ci sono i mondiali, vabbè che li trasmettono dopo la mezzanotte, però. È vero. Sì, è vero, perché anche al secondo pettine lì, da secondo al sesto, da Gavino, a Gavino Usai, mi stava chiedendo l'altro giorno, io qualche volta mi fermo rientrando a prendere il caffè o una birra, mi stava chiedendo appunto dove poteva trovare un monitor da 52, può essere, riusciamo a dire, per mettere tutto parete. Diglielo, se vuole gli affitto un videoproiettore. Videoproiettore, così è, quello che si abbassa il rullo. No, videoproiettore, è presente un proiettore che ti proietta su una parete grande quanto vuoi, non c'è problema. No, ve lo dico, ma chiedo, non so, sinceramente non so manco se siete 52 pollici, figurati quanto sono preparato in materia, esiste questo televisore 52 pollici? Certo che esiste, sì che esiste, ricordati che 52 pollici, però se non mi ricordo sono i 53, perché se un dispari quelli dei televisivi e pari quelli dei computer, mi sembra. Comunque i pollici del televisore si misurano in maniera longitudinale, quindi non in verticale ma trasversalmente. Ho capito, tanto ma due, c'è 52, 53, 54 pollici, è grande, già ho visto un 46, tutto parete, che c'era Mario, è il doppio di quello che c'ho io c'ho un 36, è il doppio di quello, segnale del misure. Vabbè, avanti doppio route. Ehi, vabbè, per chi ama il calcio, vabbè, a me non me ne ha fatto nulla. Manca mondiale. No, c'è stato un break, avanti. Cazzo, Daniele, 55 pollici, ciao, buonasera. Cappa, non so perché. No, non c'era stamattina, era impegnato sul tetto. Beh, mio genero abita attaccato a Domenico, quindi sono sempre insieme. Ok, facciamo girare, vai Grotte per Daniele Bisosso. Ehi, ciao Daniele, però non so se mi riesce a tirare fuori, guarda un po'. Sì, abbastanza bene, guarda un po' che ho aumentato la potenza. Ora si riesce a tirarmi fuori adesso. Basta andare a FM. Poi Claudio non vuole. No, io non vuole, non se ne frutta a me tu. Perché non ce l'ha quel ragazzo nuovo FM. Non ce l'ha, no, ma l'avevo già capito perché lo sentivo parlare dell'NM. No, io avevo già cambiato l'FM, già me la putte per me. Uno valeva. Non mi piace assai l'FM, perché se siete troppo uscito devi chiudere lo squelch, se no si apre la soglia, magari un break piccolino non lo senti, capito? È vero, e vabbè, poi in FM io continuo a ripetere che l'AM lo utilizziamo solamente quelli della 27 e poi dell'aeronautica, e basta così, poi tutto il resto viene a me forse a quel telefono. Già, è vero, aspetta che mi sta arrivando una chiamata. Beh, si è sentita qua. No, a me va bene, è che mi dà fastidio il fuscio, quindi metto lo squelch. Anche l'altro giorno è successo che c'era uno che breccava, nessuno lo sentiva, perché se non apre la soglia già non lo senti se è basso, capito? Dai, passate pure nel treno, non c'è nessun problema, intanto mi hanno già chiamato per la cena, quindi un abbraccio a tutti, ciao Antonio, ciao Daniele Matrice Patra, fate sentire più spesso che sia assente, ciao a Fabrizio che sta mai, ciao a te Gianni e chiunque fosse in ascolto, saluto a tutti, se ci siete dopo che vado a dare un morso a qualcosa, se ce n'è, se no partiamo, vai già. Ciao Claudio, buona carica quando la fai. Adesso fra poco ci vado anche io a vedere se il convento mi passa qualcosa anche a me. Ma non mi pare che c'è la roba già a pranzo, per ravioli eccetera eccetera. E ci finiamo qui. Ciao Claudio, buona carica batteria, a me hanno chiamato adesso, dai, ciao Gianni. Ciao Daniele e ciao anche a Fabrizio, anche se non se ne merita. Ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Ciao, ciao, poi ci sentiamo. Buona carica anche a te. Avanti, Daniele. Ciao, solo, dai, adesso forse mi sono... Buona carica anche a te, ciao, Claudio, non prendo una tenda di paletta, dai, alle prossime, tanto anche qua, tra un po'. Mi tocca anche a me. E beh, ciao. E beh, sto andando a prendere Daniele, uno mi manda da dall'altra fine, mi sono scocciato e l'ho tirato dall'altra parte, non arriva più quel pacco. Ma dipende da voi questa posta, le scarpe, in pochi giorni. Allora, io l'ho ordinato il 25 e fino ad oggi non è arrivato nulla. Mi ero girato a Predaneda, sono andato alla TNT Post, mi hanno detto no, no, pacchi qua non c'è, noi solo lettere facciamo. E vado alla TNT, mi hanno andato alla TNT e mi ha detto guarda gli uffici stanno chiudendo, apro alle 3, vabbè, arrivederci, mi sono rotto le palle, ho girato un'altra parte, quando arrivo ce lo mando indietro, perché non sono tempi, bisogna rispettare anche i tempi o no. Posso capire un giorno del ritardo, ma che ci ha dei diritti? Sì, sì, ci impegniamo noi, se non sembra che ci stanno per i fondi. Adesso telefoniamo noi, chiami fra un'ora, chiamo dopo un'ora. Sì, abbiamo mandato l'email ma non c'è ancora risposta. Ascolti, ti ho detto che telefonava, non che mandava l'email. Adesso mi sono proprio scocciato, ho detto, facciamo una cosa, loro devono da un'altra parte e ve lo mando indietro. No, se almeno dica così, no, no, me lo mando indietro, arrivederci. Io sono una persona seria, se vedo una cosa la ritiro, però cazzo, un biglietto al culo, tu l'hai fatto 50 volte a Milano, le telefonate costano, ma... sì, infatti, adesso deve consegnare GLS, c'è già la tracciabilità, il pacco è già partito e tutto quanto, ed è spedito già da venerdì, dovrebbe arrivare lunedì, sì, ma lunedì arriverà a Sassari, no? Vabbè, che sia martedì, sempre tre giorni lavorativi, ma non sono mai dal 25, quanto ne abbiamo oggi, perché non è ancora arrivato. Ciao Daniele, a 380, fammi bene, è buona carica, dai quando la fai, ci sentiamo dopo, magari se ci si rientra. Tu Cristian, ci si.